in primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Cominciamo dal Corriere della Sera che apre sull'IMU, come fanno la maggior parte dei giornali. Il titolo è Saccomanni riapre il caso IMU. Vedremo poi tutti gli approfondimenti anche sugli altri quotidiani. Ma dalla prima pagina del Corriere ho trovato interessante questo approfondimento ed è sul tema delle pensioni d'oro che abbiamo visto ieri proprio dal Corriere della Sera. Le pensioni d'oro in quelle 10 righe. L'articolo è di Sergio Rizzo che ci racconta come queste pensioni d'oro siano state introdotte nel gennaio del 94 nella Gazzetta Ufficiale e fa un parallelo così tra il serio e il faceto con un altro evento importante di quell'anno che era stato l'annuncio di Silvio Berlusconi dell'entrata in politica. Scrive Sergio Rizzo, aprendo le virgolette, l'Italia è il paese che amo, chiuse virgolette, erano le prime parole che Silvio Berlusconi pronunciava nel videomessaggio registrato che il pomeriggio del 26 gennaio 1994 e annunciava la sua discesa in campo. Nello stesso paese, in quelle stesse ore, mentre in Parlamento suonava la campanella del Liberi Tutti, sulla Gazzetta Ufficiale compariva una leggina di 10 righe, approvata dal Parlamento il giorno prima a tempo di record e a tempo di record pubblicata, ed era per l'appunto la leggina sulle pensioni d'oro che adesso si sta cercando disperatamente di trovare un modo per abrogare o comunque modificare. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, scusatemi, vi segnalo il commento di Gian Antonio Stella alla legge contro il femminicidio. È il commento di un uomo e lo trovo particolarmente interessante. Dopo vedremo anche commenti invece di donne su altri giornali. Il commento si chiama "Un passo avanti ci aiuterà a cambiare". Scrive Gian Antonio Stella, e adesso però occorre che chi deve sappia finalmente ascoltare. La nuova legge voluta dal governo contro il femminicidio, benedetta da Maria Stella Gelmini e Anna Finocchiaro, Michela Vittoria Brambilla e Susanna Camusso, e insomma da donne e uomini di destra e sinistra che su mille altre cose non si sopportano e si scontrano quotidianamente, raccoglie una coralità di consensi che non si vedeva da decenni. L'articolo continua a pagina 3, ve ne leggo un altro piccolo stralcio. Gli esperti che si occupano da sempre del tema segnalano più falle, esempio, sicuri che ci saranno i fondi per l'assistenza legale alle vittime, e l'insieme delle norme dovrà essere completato e migliorato, ma è davvero un passo avanti, tanto più per un paese come il nostro. Vi leggo l'ultima parte. È vero che non c'è legge che possa da sola sanare un problema o guarire una ferita, e a nulla serviranno tutte le migliori idee e le migliori innovazioni delle nuove regole se dovesse mancare da parte di chi dovrà raccogliere gli sfoghi, i pianti, le denunce delle vittime, la capacità di andare oltre il dovere burocratico per ascoltare finalmente e finalmente capire. Sempre la pagina 3, per chi appunto vuole capire davvero quali sono le misure varate con questa legge, c'è una domanda e risposta di Luisa Pronzato e Marta Serafini: come le nuove regole garantiranno le donne? Uno schemino molto riassuntivo ma molto efficace. E la continuazione invece dell'articolo di Sergio Rizzo che vi segnalavo dalla prima pagina lo trovate a pagina 13, il blitz sulle pensioni d'oro, la leggina più veloce della Repubblica. Siccome abbiamo detto tutti i quotidiani aprono sulla questione dell'IMU che è risolta soltanto in parte, per ora continua a essere una tassa sospesa, non si sa bene se verrà del tutto abrogata, in che termini, allora vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, il titolo è questo, ma c'è l'approfondimento migliore, come è ovvio che sia, visto che questi sono proprio i temi su cui il Sole 24 Ore è più ferrato. Casa, spunta la tassa unica. La service tax, così è stata ribattezzata perché così viene chiamata in molti paesi anglosassoni, peserà la metà dell'IMU. Questa tassa unica quindi dovrebbe unire l'IMU, che è la tassa sulla prima casa, sugli immobili, in realtà può essere anche sulla seconda casa come era stata concepita all'inizio, e poi verrebbe unita la TARES, che è la nuova imposta sui rifiuti. C'è un editoriale di Massimo Bordignon che si intitola "Non pesare sul lavoro" ed è la questione delle tasse comunali. Scrive Bordignon: la notizia che 500 comuni abbiano deciso di incrementare l'addizionale IRPEF e che molti altri stiano pensando di farlo fa caponare la pelle. Ma come? Si parla tanto della necessità di ridurre le tasse e i comuni aumentano l'IRPEF? Mettetevi però nei panni di un sindaco che deve fare il bilancio per il prossimo anno. Al momento non sa che fine farà l'IMU sulla prima casa e se mai riceverà un rimborso per la sua eventuale abolizione. Questo è il problema spesso che riscontriamo in Italia, cioè dell'incertezza delle leggi e di persone, sindaci, ma naturalmente anche imprenditori, che devono fare dei budget, delle previsioni, ma non sanno su che cosa possono davvero contare. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche il riferimento ai due speciali che seguiamo ormai da lunedì, che sono i due speciali estivi del Sole 24 Ore, da una parte quello sul portafoglio, da una parte quello sulla casa. La puntata di oggi per quanto riguarda il portafoglio è dedicata alle obbligazioni e come questi corporate bond abbiano rendimenti bassi e prezzi ai massimi, quindi è il momento, scrive Maramonti a pagina 6, di una maggiore selettività. Mentre per quanto riguarda la casa, l'approfondimento di oggi, sempre a cura di Angelo Busani, è sull'eredità, cioè i vincoli familiari limitano il testamento, secondo appunto questa sintesi che fa il sommario del bonus di oggi, della puntata di oggi sulla casa, che poi occupa un'intera pagina del Sole 24 Ore, a pagina 14. Un altro approfondimento a pagina 5 su una legge varata poche ore fa è quella sugli incentivi al lavoro, pronte 190.000 PMI. Il ministro del lavoro Giovannini ha spiegato: le risorse consentono oggi di creare però al massimo 100.000 nuovi posti di lavoro, quando naturalmente ne servirebbero molti di più, ma come scriveva anche ieri Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, è sicuramente un piccolo passo, ma è un piccolo passo importante. Vi segnalo poi dalla pagina 11, ne abbiamo parlato ieri, ma se ne riparlerà credo da qui fino a settembre, su questo annuncio di Obama che non ha cancellato il previsto faccia a faccia di settembre con Vladimir Putin. Il commento è di Ugo Tramballi ed è un arsenale di ricordi della guerra fredda. Vi leggo le prime righe. Dato lo schiaffo a Obama, ospitando Edward Snowden, vi ricordo l'ex analista della CIA che ha rivelato alla stampa quello che la National Security Agency faceva per spiare americani e non americani. Ecco allora Edward Snowden. E il controschiaffo a Putin, rifiutando il vertice a due, americani e russi tornano ai loro affari veri. O, come li definiva Henry Kissinger, alla opacità costruttiva, quella dimensione diplomatica nella quale i nemici dialogano e mantengono viva la possibilità di fare cose utili per entrambi e possibilmente per altri. Uno spazio ovattato nel quale durante una crisi apparente accade l'esatto contrario di quello che dicono i titoli di giornale. Quindi appunto queste dichiarazioni pubbliche, la concessione dell'asilo politico a Snowden da parte di Putin e Obama che fa il suo controschiaffo, come lo definisce Ugo Tramballi, cancellando il vertice faccia a faccia di settembre, e poi in realtà probabilmente dietro le quinte i due paesi continuano a parlare e soprattutto continuano a fare affari. Dicevamo a pagina 17, vi risegnalo tutto l'approfondimento sulla casa per quanto riguarda l'eredità. E poi dalla prima pagina di Finanza e Mercati, sapete che tengo molto a non spegnere i riflettori sulla vicenda Ligresti perché è veramente eclatante, e oggi c'è un aggiornamento di Stefano Elli che ci spiega che la decisione del GIP di Torino sulla richiesta di scarcerazione di Ionella Ligresti è stato un no, quindi la figlia maggiore di Salvatore Ligresti, che invece è agli arresti domiciliari, resta in carcere. L'altra figlia Giulia è in carcere a Vercelli e poi c'è un terzo figlio Paolo che è latitante. Vi ricordo, sono accusati di aver sottratto non decine ma centinaia di milioni di euro dai bilanci delle società che guidavano. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, anche qui il titolo è sull'IMU. IMU Saccomanni gela il PDL. Come avete sentito anche dal GR, ci sarebbero, come sicuramente sentiremo anche oggi, perché la questione andrebbe risolta possibilmente prima delle ferie, starebbero pensando a nuove soluzioni. La peggiore è abolirla, quindi probabilmente non sarà quella la soluzione. Bisognerà trovare dei correttivi, perché come vedevamo anche da Sole 24 Ore, i comuni di questa tassa non possono fare a meno, perché dovrebbero poi, ci dimentichiamo sempre che se magari risparmiamo sull'IMU però poi i comuni sono costretti a mettere a pagamento altri servizi, e allora dovremmo tutti valutare che cosa ci conviene davvero. Ma dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo, vi dicevo, molti commenti alla legge sul contro il femminicidio. Quello di Repubblica, il principale, di Concita De Gregorio, ex direttore dell'Unità, prima giornalista di Repubblica, poi è andata a dirigere l'Unità, adesso è tornata a Repubblica sostanzialmente come editorialista. Il titolo del suo intervento è Prevenire è rieducare. Inasprire le pene non basta, naturalmente, e forse non serve. Le buone leggi non sono quelle che nascono dalle pessime abitudini e tentano di sanzionarle, condonarle, depenalizzarle, regolarle e infine punire. Sì, chi davvero esagera. E segue a pagina 35. Dalla prima pagina di Repubblica vi segnalo un pezzo un po' estivo ma molto bello di Stefano Benni, che è in realtà un pezzo che lo scrittore leggerà oggi a Rovereto, ma per chi non ha la fortuna di essere a Rovereto oggi, per questo festival a seminare la buona pianta, vi leggo le prime righe. Aver passato la maggior parte dell'infanzia in mezzo ai boschi e alle piante è una linfa che ti nutre per tutta la vita. Mi commuovo quando penso ai miei vecchi amici, animali e vegetali. Sarei stato triste senza la loro compagnia, e questo testo è un ringraziamento. Gli alberi si possono guardare dal basso e sono belli, ma se vuoi far conoscere un albero ci devi salire sopra. Ed è una pagina intera, poi a pagina 43, e vi leggo solo le ultime righe dove Stefano Benni racconta di un suo nonno che era anche un botanico e zoologo, e lui scrive: gli volevo bene, ma quando mi spiegava scientificamente i 100 tipi di ciliegio, il mistero dei funghi e delle spore, i vari modi di pollinazione, in cuor mio sorridevo quanto erano belle le piante e lo sapevo meglio di lui. Quindi le sensazioni, insomma, che ci dà il vivere a contatto con la natura. Tra l'altro trovate anche sui giornali, sul Corriere, un articolo di Anna Chiara Sacchi che spiega come siano aumentate le adozioni di aiuole a Milano. Milano è una città che ha molto verde segreto, poco verde pubblico, e poi anche come ci sia un piano per piantare dei piccoli alberi in Piazza del Duomo. È quasi arrivato il momento, anzi è arrivato il momento di interromperci per il meteo, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Bentornati, ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa. Eravamo sulle pagine di Repubblica. Da pagina 19 vi segnalo un articolo sulla decisione annunciata ieri dal Vaticano, ed è quella che Repubblica definisce una stretta del Papa per quanto riguarda il contrasto al riciclaggio, e con nuovi controlli sullo IOR e l'APSA, che è l'amministrazione patrimoniale della Santa Sede. È una notizia che anche l'Avvenire coraggiosamente mette in prima pagina, e il titolo è, con una bellissima foto notturna di San Pietro, della cupola di San Pietro: la Santa Sede rafforza la trasparenza finanziaria. Perché dico coraggiosamente? Perché naturalmente questo è un tema molto delicato per il Vaticano, quello di essere stato accusato nei mesi scorsi, ed è stata una delle priorità che hanno voluto imporre a Francesco. Poi lui ha giustamente deciso quali fossero le priorità, però appunto cercare di mettere ordine nelle società, nelle istituzioni che si occupano di finanze all'interno del Vaticano, perché deve essere un settore in cui il Vaticano deve essere al di sopra di ogni sospetto. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo una notizia che solo l'Avvenire riporta, mentre parlavo anche prima con Maria Pera Ceci, che ha condotto il GR. È sicuramente una notizia di grandissima portata, ed è quella che probabilmente, così scrive Science, una delle più importanti riviste scientifiche, una rivista americana: c'è un primo vaccino, è stato scoperto un vaccino contro la malaria che è efficace al 100% contro la malattia. La malaria è una malattia praticamente debellata in Occidente, ma che invece in Africa continua a colpire. Sarebbe curabile, sarebbe prevenibile, come sanno tutti coloro che vanno in Africa per viaggio, per turismo, ma non sono disponibili questi farmaci in Africa spesso. Quindi bambini, donne, uomini muoiono per questa malattia, per la quale in realtà una cura esiste. Il vaccino naturalmente sarebbe ancora più pratico, ancora più semplice. E scrive l'Avvenire: balzo in avanti nello sviluppo di un vaccino contro la malaria. Ricercatori statunitensi sono riusciti a mettere a punto il primo vaccino che simula la puntura di una zanzara, e i test clinici si è rivelato efficace quasi nella totalità dei casi. Se i risultati verranno confermati, le iniezioni potrebbero essere messe a disposizione della popolazione già nel giro di 3 anni. Sulla questione in generale, insomma più in generale sulle questioni del Vaticano e di Papa Francesco, vi segnalo, non resisto, dalla prima pagina del Foglio, sapete che sulla prima pagina del Foglio chi così conosce questo giornale, c'è sempre un piccolo, sono 20-30 righe massimo, una piccola rubrica di Andrea Marcenaro che si chiama Andrea's Version, molto molto ironica. Io a volte, lo confesso, non la capisco, ma oggi invece la capisco e l'ho trovata molto divertente, ve la leggo, e fa riferimento a un articolo, una delle lenzuolate di Eugenio Scalfari, mi sembra fosse lunedì o martedì, lo stesso giorno in cui c'era l'editoriale di Ezio Mauro. Mi sembra proprio lunedì, e scrive Andrea Marcenaro. Lo avrete, scusatemi, il titolo di questo articolo, lunghissimo articolo di Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica e ora editorialista, era le domande che voglio fare a Papa Francesco. Allora scrive Andrea Marcenaro: le avrete viste senz'altro anche voi. Io personalmente le ho lette con l'attenzione che meritavano. Tre, mi pare di ricordare, sono le domande che Eugenio Scalfari ha rivolto direttamente al Papa. Se una persona priva della fede, che non la riceve, cerchi possa essere perdonata dal Dio cristiano nel caso commetta ciò perché per la Chiesa è peccato. Se la Chiesa consideri un errore o non piuttosto un peccato la posizione di colui che non crede all'esistenza dell'assoluto e per conseguenza nemmeno all'esistenza di una verità assoluta. E se questa è la terza domanda, con la presumibile fine della nostra specie, scomparirà anche Dio, non esistendo più nessuno in grado di pensarlo. Bene, ma veniamo al punto. Sono passate già 24 ore e il Papa non gli ha ancora risposto. Insomma, un po' di ironia ogni tanto non guasta. Ma la prima pagina della stampa, invece, anche qui il titolo è sull'IMU, il tesoro iniquo, abolire l'IMU, iniquo perché c'è tutta una questione molto complicata e tipicamente italiana sulle rendite catastali. Potrebbe alla fine succedere che case che sono di lusso, comunque di pregio, pagano una tassa tutto sommato sproporzionata a quella che invece di case di persone normali, e quindi, secondo appunto il tesoro, potrebbe essere iniquo addirittura abolirla, ma il PDL, lo sappiamo, insiste, è una tassa da eliminare. Dalla prima pagina della stampa vi segnalo un altro approfondimento, anche in questo caso sulle pensioni d'oro. Il governo pensa al taglio, un problema di equità, parla uno dei manager con l'assegno milionario, non si toccano i diritti. Questo intervento di questo manager, che è quello di Telecom, quello che in assoluto percepisce, l'ex manager di Telecom, che in assoluto percepisce la pensione d'oro più alta, è un po', come dice Alessandro Milan, un articolo da mani sul volante. Ecco, quindi leggetelo se siete tranquilli, perché insomma non è proprio l'atteggiamento che ci aspetteremmo, almeno io che mi aspetterei da una persona che ha un privilegio così alto. In ogni caso è un approfondimento da leggere, ma soprattutto vi segnalo che alle 9 Irene Zerbini si occuperà anche di pensioni d'oro. Dalla prima pagina della stampa una fotonotizia impressionante, è una foto scattata dall'alto di una parte di un bosco sardo che brucia, e scrive la stampa: piromani scatenati, SOS dei sindaci. Il capo della protezione civile Gabrielli, che dice è una guerra impossibile, ma soprattutto il problema è che la guerra sarà impossibile, però a volte non si hanno neanche gli strumenti per combatterla. In questo caso mancano i Canadair, come appunto hanno denunciato molti sindaci della Sardegna. I Canadair sono quegli elicotteri che magari io li ho visti spesso in Liguria, fanno queste evoluzioni incredibili, cioè si abbassano sul mare, prendono quantità d'acqua gigantesche e poi le buttano sugli incendi in corso. Sono uno dei modi per contrastarli, a volte non bastano neppure quelli, però se non ci sono sicuramente è ancora più difficile spegnere un incendio in queste bellissime terre come la Sardegna. Visto che è un po' il giorno dei commenti brevi, delle rubriche brevi, vi segnalo dalla pagina 3 della stampa il consueto brevissimo commento di Iena, e il titolo è Riposo. Anche quest'anno il Parlamento chiude per consentire a deputati e senatori di prendersi un lungo periodo di immeritato riposo. Sul femminicidio torniamo ai commenti. In questo caso in realtà è un'intervista a Giulia Bongiorno, che da anni è un avvocato naturalmente famosissimo, è stata l'avvocato di Andreotti nei suoi processi più importanti, e spiega, è un'intervista, e Giulia Bongiorno dice che tra l'altro è impegnata da anni in un'associazione in difesa delle donne, soprattutto per quanto riguarda i problemi di stalking. Spiega: le misure restrittive sono una sconfitta per lo Stato, non è una svolta, servono processi più rapidi. Questo è solo un piccolo passo e nemmeno completo. Da un avvocato come Giulia Bongiorno, autrice della legge sullo stalking, insieme a Michelle Hunziker, animatrice di una fondazione in difesa delle donne, per il provvedimento antifemminicidio del governo ci si aspetterebbe un po' di entusiasmo. E invece, appunto, spiega Giulia Bongiorno, non è quello che lei avrebbe auspicato. E sulla sul, vi leggo le ultime due domande, domanda e risposta, le chiede Paolo Colonnello. E sull'irrevocabilità della denuncia? Non sono d'accordo. Moltissime donne mi hanno detto che se non avranno la possibilità di remissione dalla querela in caso di riappacificazione, non presenteranno nemmeno la denuncia. Ma alcune ritirano la querela perché vengono minacciate, dice Colonnello. E la Giulia Bongiorno risponde: basterebbe che in caso di ritiro ci sia l'obbligo del magistrato di sentire la parte lesa per verificare se è libera o vessata. L'articolo sulle pensioni d'oro, ve lo ricordo ancora una volta, è a pagina 14 e appunto il pensionato milionario che dice: non si violano i diritti, mettete una patrimoniale. Perché come, questo è sicuramente un problema molto interessante dal punto di vista giuridico, cioè la non retroattività delle leggi. Si dice che non si può varare un provvedimento che è retroattivo, e questo è in linea di principio un caposaldo del diritto di molti paesi occidentali. Beh, in questo caso, però, con queste pensioni, appunto, forse un qualche correttivo. Questo pensionato d'oro propone una patrimoniale, dice che sarebbe contento di pagarla. Vediamo poi alla prova dei fatti. Comunque, sicuramente un qualche correttivo bisognerebbe trovarlo. Passiamo alla prima pagina del Messaggero. Anche il Messaggero titola sull'IMU scontro tesoro PDL, ma la notizia che ho visto sul Messaggero e non altrove è quella sul blocco degli stipendi per 3 milioni di dipendenti statali, congelati stipendi e scatti fino a tutto il 2014. Un approfondimento a pagina 2, quindi da una parte appunto le pensioni d'oro per nulla bloccate e dall'altra il blocco degli stipendi per 3 milioni di statali. Dalla pagina 12 del Messaggero è l'approfondimento più ampio che ho trovato su questa proposta di Matteo Salvini, che il Messaggero poi in realtà definisce una provocazione. Bisognerebbe chiedere a Salvini se è solo una provocazione o se davvero vuole procedere con questa raccolta di firme. E la proposta, l'avete sentito anche nel GR, il ministero che venga abolito, il Ministero per l'integrazione guidato da Cécile Kyenge. E poi c'è una notizietta che poi trovate anche su altri giornali. Vi lascio immaginare sulla Padania, questo ha tanto spazio, la lite tra i deputati, perché un deputato del PD di origine marocchina, Khalid Chaouki, sta facendo la sua piccola battaglia perché sia disponibile alla buvette del Parlamento anche il kebab. Passiamo alla prima pagina del giornale che torna sulla questione Esposito. Il giudice Esposito, sapete, il presidente della Cassazione che ha letto la sentenza che ha definitivamente condannato Berlusconi. E ora il giornale, oggi per il secondo giorno di fila, indaga sul passato di questo giudice. Esposito processato già due volte, gli altarini del giudice, accusato di venire retribuito per la gestione della sua scuola, l'ISPI, ne abbiamo parlato ieri, accusato di usare i messi comunali come autisti dei familiari, accusato di scegliere i casi mediatici per spirito di protagonismo. C'è sulla questione di Berlusconi, sul suo futuro politico e su che cosa forse deciderà il capo dello Stato sulla Grazia. C'è un editoriale di Paolo Guzzanti: l'invidia e le trappole, cari nemici, non spezzerete un leader nato. Ma vediamo un po' le pagine interne. Questo è un articolo che il Corriere della Sera richiama in prima pagina, è un approfondimento sulla situazione degli yacht quest'anno. Meno tasse, più servizi, il ritorno dei diportisti in fuga. Prima ripresa dopo il crollo del 2012, quando sapete c'era stata quella supertassa molto criticata, varata dal governo Monti, molto criticata sugli yacht di lusso, perché si diceva in questo modo li si fa fuggire verso porti vicini della Francia, della Croazia, per esempio, dove ci sono regole, dove ci sono trattamenti più favorevoli. Le imbarcazioni ormeggiate ai moli italiani sono aumentate del 3%, scrive il Corriere della Sera. In realtà è una pagina intera con molti dati interessanti di Erika Della Casa. Vi segnalo dalla pagina 33 del Corriere della Sera, che è la pagina dei commenti. Abbiamo visto il commento di Iena sulle ferie dei parlamentari. Qui c'è un commento di Enrico Caiano: le lunghe ferie dei parlamentari e quelle mordi e fuggi degli altri. Vi leggo le prime righe: vacanze, mordi e fuggi, weekend con la prolunga, pochi giorni, maledetti e subito. Gli italiani e i media trovano slogan sempre nuovi per definire le ferie estive negli anni della crisi. Poi, però, quando uno va a vedere che fa il famoso Parlamento specchio del paese, nota che lo specchio è rotto. La Camera presieduta da Laura Boldrini chiude da domani, 10 agosto, e riapre il 6 settembre, 27 giorni di fila. Il Senato presieduto da Piero Grasso è chiuso da oggi fino al 3 settembre, 26 giorni, uno in meno di Montecitorio, nonostante l'età media più alta. E poi vi leggo le ultime righe, ma Boldrini e Grassi possono sempre consolarsi con il Parlamento siciliano, tutti a casa per 40 giorni. Boh, c'è da dire, poi ricordiamo magari che invece Enrico Letta ha annunciato, annunciato ieri che si darà il cambio con il suo vicepremier Alfano per cercare di praticamente non andare in ferie, e c'è tra l'altro un consiglio dei ministri fissato per il 23 agosto, quindi il governo per contro di ferie sembrerebbe volerne fare pochine. Forse ricordate, martedì mi sembra, avevamo letto dall'approfondimento di Leonardo Maisano sul Sole 24 Ore su questi contratti a 0 ore iperflessibili della Gran Bretagna. La stampa riporta una reazione che ci sarebbe adesso, una controreazione in Gran Bretagna alla sbarra ai contratti a 0 ore. Perché? Perché un ex dipendente ha fatto causa. Infatti, per via di questo contratto di estrema flessibilità e quindi di estrema precarietà, avrebbe avuto attacchi di panico. E quindi appunto causa e diventa quindi pericoloso. Se ci sono dei precedenti, sapete che in Regno Unito si lavora con il metodo del precedente, che è una forma di legge tipicamente anglosassone. Anche a Buckingham Palace sono stati assunti 350 persone con questa formula di impiego, che adesso Leonardo Maisano ce la raccontava sul Sole 24 Ore. Potete recuperare l'articolo tra l'altro sul nostro sito, e ora sarebbe sotto accusa. Ci fermiamo però per le notizie sul traffico, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa. Due piccole precisazioni: un ascoltatore mi dice ha ragione, il Canadair è un aereo e non un elicottero come ho detto io, è vero, è un piccolo aereo. E invece all'ascoltatore che mi chiede se l'articolo di Benni a pagina 43 di Repubblico del Corriere della Sera è a pagina 43 di Repubblica, è l'intervento che lo scrittore leggerà questa sera al Festival di Rovereto. Torniamo sulle pagine interne dei giornali. C'è una storia che, insomma, sono quelle notizie che a me mettono sempre molto tristezza. Io in passato ho lavorato anche per una casa editrice, e comunque lavorando nell'editoria, la notizia è addio alla casa delle idee. In Germania fallisce la storica Suhrkamp, l'impresa editrice, la casa editrice che in passato ha pubblicato gli scritti di Bertolt Brecht, Mann e Hesse, ed è un pilastro, così la definisce il Messaggero, della nuova nazione democratica. Dagli anni 60 è stata la culla della letteratura tedesca contemporanea, ha diffuso il credo della contestazione. Però appunto è in difficoltà economiche da molti anni, non ha saputo forse reinventarsi o comunque porre rimedio a queste difficoltà economiche, e ora Suhrkamp fallisce. Dal giornale, sempre le pagine interne, vi segnalo invece una notizia sugli animali. La trovate, ho visto, anche sul sito della stampa, in realtà, per chi volesse, non avesse, insomma, avesse solo internet. Riguarda i delfini. Il titolo è I ricordi eterni dei delfini, l'amicizia dura per sempre. L'uomo non ha il primato della memoria, ci racconta Oscar Grazioli, quella sociale è più sviluppata nei cetacei, si riconoscono tra loro anche dopo 20 anni. A proposito di pensioni d'oro, di superpensioni, il titolo di Libero in prima pagina è La superpensione di Epifani. Scopriamo, questa è una, la, de, Libero la definisce una furbata democratica, scopriamo che prima di lasciare il timone della CGIL, era segretario della CGIL Guglielmo Epifani, ora è segretario del PD, ecco, si è alzato lo stipendio, ora percepisce 3.400 euro netti al mese che si aggiungono alla ricca paga da parlamentare, tutto a spese nostre. Vi segnalo sulla legge sul femminicidio un articolo un po' controverso, ma lei è un po' una polemista di professione, di Maria Giovanna Maglie. Il titolo dell'articolo è Il femminicidio diventa una sanatoria mascherata. Maria Giovanna Maglie definisce questa legge una legge demagogica e sbagliata, e ci spiega perché a pagina 15 di Libero. Sempre in tema un po' di ironia, sarcasmo, per chi ne avesse voglia, chi magari non ha, perché poi so che Travaglio suscita sentimenti estremi. Sulla prima pagina di oggi del Fatto Quotidiano c'è il suo solito editoriale, c'è tutti i giorni, e questa volta è una finta, diciamo, una finta lettera al presidente Napolitano, che in realtà ha scritto Marco Travaglio, e è come se un piccolo evasore, in questo caso un barista di Capri, scrivesse al presidente Napoletano per protestare appunto contro la sua situazione di evasore e quella, secondo Marco Travaglio, di Berlusconi. Allora vi leggo le prime righe. Caro presidente Napolitano, sono un barista di Capri multato e denunciato dall'Agenzia delle Entrate per qualche scontrino non battuto nell'ultimo blitz del 2 agosto. Mentre gli agenti del fisco irrompevano nel mio locale, stavo leggendo le cronache sulla condanna di Silvio Berlusconi per una frode fiscale da 7 milioni di euro, residuo di un'evasione da 360 milioni di dollari falcidiata dalla prescrizione. Insomma, capite dove si va a parare un po' l'espediente trovato da Marco Travaglio per parlare anche oggi della sentenza Berlusconi. Il titolo del Fatto Quotidiano è Cacciare B non c'è fretta, punire Esposito d'urgenza. Questo il riferimento è al fatto che dopo la richiesta dagli esponenti del PDL di indagare appunto sulla condotta del giudice Esposito, che ha rilasciato la famosa intervista al Mattino dove commentava sentenza contro Berlusconi ancora prima che uscissero le motivazioni ufficiali, il CSM appunto ha richiamato, scrive il Fatto Quotidiano, ha richiamato Vietti, che è il vicepresidente del CSM, per inquisire il giudice che ha condannato il cavaliere. Ieri un ascoltatore aveva mandato un SMS dicendo che è facile spiegare perché i giornali sono in crisi perché sono di parte. Ecco, probabilmente su molte cose ha ragione, molti giornali sono di parte, essere obiettivi è molto difficile. E per così oggi c'è questa, prendo questo spunto dell'ascoltatore di ieri, per prendere la stessa notizia, che è quella della lite un po' del battibecco ieri in televisione tra Bianca Berlinguer e Mara Carfagna. Davvero, se avete tempo, è veramente divertente vedere come la raccontano in modo davvero diverso, da una parte il Fatto Quotidiano e dall'altra Libero. Vi leggo soltanto i titoli. Il Fatto Quotidiano, in un articolo di Andrea Scanzi, è Mara da colomba ad aspirante pitonessa. L'ex pacata ministra ha abbandonato lo studio di Linea Notte, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Qualche giorno prima aveva litigato al TG della 7 con Beppe Civati e Gaia Tortora. E invece Libero titola: scontro fra la direttora e l'ex ministro, la Berlinguer le tappa la bocca e la Carfagna se ne va dal TG3. Vi assicuro che se uno non avesse visto questo battibecco, non è stata neanche una lite, lo si può vedere su internet, come leggesse o uno o l'altro degli articoli avrebbe un'opinione completamente diversa di quello che è successo. Quindi l'unico modo è, per chi ne avesse voglia, andare a vedersi questo battibecco e farsi un'opinione. La prima pagina della Gazzetta dello Sport è naturalmente piena la gazzetta di notizie sul calciomercato e notizie sulla salute dei vari calciatori. Balotelli, per esempio, ha avuto un infortunio, lo sapete, quindi c'è molta preoccupazione nel Milan. Però vi segnalo sull'Inter, sono interista, però questa direi che è proprio una notizia. L'Inter contatto con Eto'o. Sapete che l'attaccante era andato in Russia per giocare con questa viveva in realtà a Mosca, ma giocava con questa squadra Lanzi, che però adesso ha chiuso perché Lanzi era il giocattolo di un miliardario che ha deciso che non si diverte più con il calcio, che forse il calcio gli costa troppo. E quindi Lanzi cederà a Eto'o, che è il calciatore probabilmente che costava di più, e i nerazzurri prendono informazione dal procuratore in sede per chiudere l'affare Rolando, quindi calciomercato con tantissimi aspetti diversi. Ma oggi è venerdì, quindi ci sono in edicola anche tanti settimanali, quindi per una volta, non per una volta, insomma, li segnaliamo perché è venerdì. Ieri abbiamo segnalato la copertina di Panorama che era dedicata un po' a questo scandalo TripAdvisor, sapete il titolo, il sito dove si danno e si ricevono consigli su dove andare in vacanza, perché chi ci va dovrebbe, anzi il sito era nato per questo, lascia i suoi commenti e poi però si scopre che alcuni commenti non sono veri, sono magari, e Panorama spiega molto bene all'interno questo piccolo scandalo TripAdvisor. L'Espresso invece in edicola oggi oggi la copertina è su Marina Berlusconi, l'eredità, il suo popolo, il partito, le aziende, la sua salvaguardia personale. Dopo la condanna Berlusconi pensa già al futuro e a Marina, l'unica che forse può salvarlo e tenere unito l'impero. Un lungo articolo all'interno, ma secondo me l'articolo più interessante è quello di Luigi Zingales, che è un economista e editorialista dell'Espresso. Il suo articolo è intitolato "Ecco che torna la finanza creativa". La moda è americana, invece di dare sussidi alle banche si dà una garanzia pubblica a chi presta loro dei soldi, oppure, come si pensa di fare oggi in Italia, di garantire il buon esito dei prestiti. È una strada rischiosa per il contribuente. Vi leggo le ultime righe, perché quello della finanza creativa è un tema molto interessante. Alcuni pensano che sicuramente sia stata una delle cause della grande crisi finanziaria iniziata nel 2008 con il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers negli Stati Uniti. Quindi scrive Zingales: come se non bastasse, queste garanzie vendute come un aiuto alle piccole e medie imprese rischiano di trasformarsi in aiuto alle sole banche. In un mercato perfettamente competitivo non importa chi riceve il sussidio, questo finirà sempre per favorire il consumatore, in questo caso le imprese. Ma il nostro mercato bancario è lungi essere perfettamente competitivo, quindi una parte notevole del sussidio rischia di finire nelle mani delle banche, le quali sono possedute a loro volta da fondazioni di nomina politica. Così alla fine è sempre la politica che finanzia se stessa a spese dei contribuenti. Il Venerdì, in edicola oggi allegato con la Repubblica, la copertina è dedicata a Ben Stiller, questo attore americano forse lo ricorderete nella saga "Mi presento i tuoi, ti presento i miei", quelli dove i genitori erano di lei erano Robert De Niro, il nome dell'attrice non me lo ricordo, però appunto il padre era Robert De Niro, i genitori della moglie, scusatemi, mentre i genitori di lui erano Dustin Hoffman e Barbara Streisand. Molto divertente questa saga, secondo me. Ma dalle pagine interne vi segnalo un altro articolo sugli animali. Il Venerdì ha sempre degli approfondimenti molto interessanti sugli animali. Questo è di Francesco Mezzatesta: nella guerra contro i piccioni a rimetterci sono i rondoni, e questo è un male, soprattutto perché, volendola guardare proprio dal punto di vista utilitaristico di noi umani che abitiamo le città, i volatili non sono i rondoni, sono degli utili cacciatori di insetti, ma non riescono più a trovare alloggio nelle nostre città, che stiamo combattendo questa battaglia contro i piccioni. Vi segnalo anche in edicola il Internazionale, che per 2 settimane è uscito venerdì ma è in edicola ancora per tutta questa settimana e la prossima, il tradizionale numero estivo dedicato al viaggio, con articoli appunto sul tema del viaggio da tutto il mondo e anche foto bellissime come sempre nella parte che Internazionale dedica alle foto. Era l'ultima segnalazione, c'è in edicola anche 7 però col Corriere della Sera, copertina dedicata al Principe Carlo, non vorrei dimenticarlo. Ora però è tempo di avere gli aggiornamenti. No, basta, non, nessun aggiornamento, è tempo per il GR. Buona giornata a tutti, di nuovo ci sentiamo domani.